9 in punto. Buongiorno cari ascoltatori da Simone Spezzi e benvenuti a 9 in punto, un'edizione naturalmente, una puntata molto particolare. In realtà è l'inizio di un lungo speciale che ha preso il via questa mattina alle 6 con Alessandro Milan, che è ancora qua tra l'altro. Buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno a tutti. Un devastato Alessandro Milan che ha iniziato questa mattina. Sto benissimo. Mattina alle 6, un lungo speciale col quale... Sto meglio dell'Italia. Tutto sommato sì, anche a guardare i numeri di questa mattina. Come si diceva, andremo avanti fino alle 13, poi alle 13.15, fino alle 13.15, dalle 13 alle 13.15 il giornale radio, e poi riprenderemo per parlare delle regionali, perché inizierà lo spoglio delle regionali. Mica è finita qua, mica è finita con un paese sostanzialmente ingovernabile. Enrico Mentana, direttore del TG La 7, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno Simone, buongiorno Alessandro. Allora, primo commento sul voto, insomma, l'ingovernabilità è nei fatti, insomma, no? Secondo te che sbocco può avere? Beh, ci vuole uno sbocco di responsabilità, però nessuno può pensare che si può andare avanti 5 anni con cercando i numeri in Parlamento tra forze che hanno le loro dinamiche, ciascuna è sconfiggente con le altre, perché questa è la questione di fondo. Al bipolarismo che aveva contraddistinto in maniera anche un po' rozza gli ultimi 20 anni, abbiamo sostituito un multipolarismo altrettanto però rissoso e incomponibile. Berlusconi alternativo alla sinistra, che alternativa al 5 Stelle, che alternativa a Berlusconi. Lasciamo perdere quello che è successo al centro, nel senso che abbiamo una perfetta situazione già vista ad esempio in Grecia, di un premier graditissimo all'Europa però bocciato dagli italiani. Quando solo il 10% dei voti validi va al centro di Monti, si capisce che la pancia dell'Italia va appunto a questo punto in un tripolarismo perfetto, perché poi più o meno limando decimali e qualche unità, il peso dei grillini, il peso dei berlusconiani e il peso dei bersaniani è uguale, no? Più o meno, sì, tra il 25 e il 30%, e quindi capiamo come l'Italia sia in una situazione difficilissima dal punto di vista politico. Peraltro, fatemelo dire, cioè, le reazioni dei mercati sono sempre qualcosa da decifrare in maniera molto particolare, perché non è che possiamo votare come ci chiedono i mercati, no? Ognuno vota per sé e la somma è quello che viene fuori. Il paese ha le sue tradizioni, le sue radici, le sue pulsioni, e poi è ovvio che poi possa finire in questo modo. Chiunque avesse gli occhi per vedere sapeva che si stava andando incontro a un'affermazione del Movimento 5 Stelle. Chiunque aveva le orecchie per sentire si è accorto che il PD non ha fatto la campagna elettorale. Chiunque avesse un po' il polso del paese si accorgeva che Berlusconi, partendo dal grado zero del consenso, non poteva che risalire. No? Cioè non è che c'era bisogno della zingara per capire che si stava andando a una situazione particolare. Nicolà Latorre, senatore del PD, rieletto Latorre? Sì, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, rieletto. Una Caporetto. Ma una Caporetto, guardi, un risultato certamente che ci consegna molti problemi, consegna innanzitutto un quadro di difficile governabilità, e questo è un problema serio per il Paese. Nonostante il centrosinistra tagli per primo il traguardo, non si può parlare di una vittoria elettorale. Beh, il Partito soprattutto al punto dal quale si partiva, no? Esatto. Il Partito Democratico registra una significativa riduzione di voti, anche se dall'altra parte il PDL addirittura perde il 16%, ma naturalmente non è che questo ci consola. Insomma, il quadro che emerge è un quadro molto problematico, ovviamente un quadro che ci impone una responsabilità che dobbiamo avere la forza e il coraggio di prendere a piene mani per cercare di avviare una nuova fase che tenga conto di due elementi. Il primo, le politiche di austerità e di rigore non possono essere l'obiettivo delle politiche di governo. Questo ci ha detto con chiarezza il Paese. Il secondo dato è che questa frattura, questa crisi del rapporto tra istituzioni e società, politica e società, ha raggiunto livelli molto, molto alti, e quindi la prima vera emergenza è restituire credibilità con atti concreti, che secondo me dovrebbero essere i primissimi atti del nuovo Parlamento. Nuovo Parlamento, mi scusi la Torre, ma quindi molto brutalmente, incarico a Bersani oppure no? O dove andiamo a finire? Governo di grande coalizione? Voto presto? Io vorrei andare molto concretamente, perché è vero quello che diceva poco fa Mentana, che non possiamo farci dettar legge solamente dai mercati. È vero anche che stamattina abbiamo aperto con un differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi che si è ampliato di 60 punti nel giro di un'ora. E certo, guardi, le reazioni dei mercati sono abbastanza prevedibili e non bisogna trascurarle, perché il nostro è un paese estremamente importante negli equilibri europei e mondiali, e quindi è chiaro che si guarda con particolare apprensione alla condizione di ingovernabilità che potrebbe emergere da un risultato quale quello che abbiamo di fronte. Quindi io non credo che non dobbiamo farci dettare la linea dei mercati, ma non dobbiamo essere ignorarli, giustamente. E quindi i comportamenti. Io credo che onestamente in questo momento comunque il centrosinistra e ha la maggioranza alla Camera ed è la prima coalizione al Senato, quindi ha il dovere di formulare una proposta al Parlamento. Tenga conto che però ci sono due passaggi innanzitutto, che sono quelli dell'elezione dei presidenti delle Camere, che sono, come dire, il primo passo propedeutico a qualunque altro. Noi saremo convocati il 15 marzo per eleggere i nuovi presidenti di Camera e Senato. Sì. E già qui si misurerà la responsabilità di ciascuna forza politica rispetto a questo passaggio. Noi naturalmente formuleremo la nostra proposta, e dopodiché la consultazione consentirà al Presidente della Repubblica di attribuire l'incarico, che presumibilmente andrà al leader della coalizione che ha più voti. Il leader della coalizione che ha più voti proverà a formare un governo e proporlo al Parlamento. E quindi la Torre, grande coalizione è l'unica soluzione, evidentemente. Ma se le devo essere sincero, io credo che non ci sono oggi le condizioni per una soluzione di questo tipo, perché nel corso della campagna elettorale sui contenuti concreti di governo io vedo che tra il PDL e il PD allo Stato c'è una distanza che non mi pare sia facilmente colmabile in questo momento, per cui presumo che ci sarà, però di questo ne parleremo, è chiaro che adesso queste sono ore nelle quali si deve maturare una decisione. Bersani credo che ascolterà un po' il gruppo dirigente del partito, e comunque sarà Bersani a formulare una proposta, penso che parlerà in mattinata intorno a mezzogiorno, dove è prevista una sua conferenza stampa. È molto probabile che si formuli una proposta nostra al Parlamento per verificare in Parlamento chi consente. Quindi direttamente in Parlamento, se ci sono i numeri. Ho Alessandro Milan qua che freme, volevi chiedere qualcosa alla Torre. No, ma non è che fremo, mi sembra un brancolare da 24 ore, perché c'è una situazione ovviamente di chiara ingovernabilità. Sia da parte sua, senatore La Torre, vorrei coinvolgere anche, non so se il direttore Mentana è ancora con noi, cioè di parlare di responsabilità, di parlare di cercare di guardare i mercati. La verità è che è un disastro. Questo è un disastro. Io non lo so, direttore Mentana, come si ricompone questa maggioranza? Perché poi i numeri sono numeri. È inutile dire allora PD e PDL, anche La Torre ci ha detto no, assolutamente no. Allora tirate dentro i grillini, che sono quelli che dicono niente inciuci, Bersani, Gargamella e Berlusconi tra sei mesi saranno falliti. Cioè, alla fine una quadra, per usare la parola tanto cara a Bossi, ci dovrà essere. Mentale, no, oppure no? Oppure no, appunto, appunto è questo no. Che dico, che sono 24 ore che si brancola nel buio. Io penso che delle elezioni che hanno cacciato Fini dal Parlamento, messo Casini in condizione di valere solo per il suo posto, ridotto Monti, che è l'uomo che doveva salvare l'Europa, no? Nelle copertine dell'Economist e nelle speranze di Obama, ridotto a un ruolo che ovviamente, come vediamo, è del tutto marginale. Un'elezione che porta il partito di Grillo ad essere un quarto delle forze parlamentari. È evidentemente un'elezione che ha espresso quello che era il volere che in democrazia è sovrano del popolo, però è un'elezione che porta a un'altra elezione, è inutile che ci giriamo attorno. In qualsiasi paese normale, e persino in paesi non normali come la Grecia, di fronte a un verdetto di questo tipo si torna alle urne, cioè, che sarebbe terrificante perché ricominciare una campagna elettorale è devastante. Però mi sembra sì. A questo proposito io non so, non di convenienza. Aggiungo solo una cosa, non vorrei essere irriverente, ma senatore Latorre, mi perdoni, io l'ho ascoltata con molta attenzione. Non le sembra che tutte queste parole che lei ha detto, che ho sentito da altri esponenti del Partito Democratico, sanno di molto muffa? Ecco, vecchio, cioè le vecchie discussioni, adesso ricomporremo una proposta. In realtà che non c'è una soluzione, stando così i numeri, però poi Sono io che le chiedo cosa le dovrei dichiarare. Secondo me si va a votare. Secondo me, però giustamente lei. Secondo me molti lo ritengono probabile. Andare diciamo, a rivotare, certo, con questa legge elettorale che ci avete portato, non lei, ma tutti. Insomma, affidiamoci ecco, al Signore. Appunto, man mano che che conversiamo, conveniamo su alcuni passaggi. Primo, tornare a votare con questa legge elettorale, io credo che sia un errore, nel senso che gli elettori ci hanno detto con molta chiarezza che questa è una legge elettorale che non li convince e che è una delle ragioni per cui hanno sposato Grillo. Quindi se noi vogliamo definitivamente rompere ogni tipo di rapporto tra le istituzioni e la società, allora non c'è problema, si torni subito a votare e vediamo cosa succede. Primo. Secondo, io ritengo che prima di andare a votare, ovviamente, bisogna espletare tutti i tentativi per verificare se in questo Parlamento ci sono le condizioni per affrontare alcune questioni, innanzitutto quella di una ulteriore drastica riduzione immediata di alcuni costi della politica ed una nuova legge elettorale, subito. Questo è il primo segnale per dire al Paese abbiamo capito e naturalmente in questo quadro nuovo si potrebbero affrontare anche delle nuove elezioni. Viceversa, io ritengo che rischiamo di condannare ad una ingovernabilità perenne il nostro paese con un prezzo enorme che rischiamo di pagare. Latorre, mi scusi, a me sembra già ingovernabile, però sentiamo Mentana che credo che volesse intervenire e farle una domanda. Io penso che Nicola Latorre è una persona amabile e molto realista, però è un esponente di rilievo di un partito che ha una posizione che deve ancora esplicitarsi, tra l'altro dopo un confronto in direzione, negli organismi dirigenti è ovvio che non può mettere il cuore oltre l'ostacolo. Noi facciamo i giornalisti e possiamo dire quello che forse anche lui pensa, non mi permetto di interpretare il pensiero latoriano, però è ovvio che una maggioranza di convenienza la si può trovare per un percorso ben delimitato che dice allora facciamo la legge elettorale ed evitiamo di essere travolti dai mercati, no? Facciamo una, due cose, ci si mette d'accordo con una presidenza istituzionale delle forti presenze in un governo qualificato e tra sei mesi si torna al voto, sapendo che si torna al voto con una legge elettorale fortemente maggioritaria, per cui essendoci tre poli incomponibili tra di loro, quello che vince governa. No? Sembra una roadmap accettabile per tutti, come ovvio, essendo accettabile per tutti ovviamente non si farà. Perché poi si comincia a dire la Camera, la Presidenza della Camera, la Presidenza del Senato, la Presidenza della Repubblica, perché entro due mesi bisogna votare anche per il successo Napolitano. Allora, anche qui la cosa più realistica e giusta e sentita probabilmente da parte di tutti sarebbe dire: Napolitano, resta altri 6 mesi, facciamo un'elezione del presidente dopo le nuove elezioni politiche. Siccome la cosa non si farà neanche questo, quindi ci si ammazzerà tra le varie fazioni per chi ha la presidenza della Camera, del Senato, poi la presidenza della Repubblica, e le macerie di tutto questo, come accadde nel 2006, si riverbereranno sulla formazione del governo. Quindi la questione sarebbe: se ci fosse qualcuno, forse solo Napolitano lo può fare, capace di prendere saldamente in mano le redini della situazione, ci sarebbe veramente da dire: ragazzi, guardiamoci negli occhi, l'analisi del risultato ci dice che c'è un'Italia spaccata in tre, non in due, spaccata in tre, mettiamo insieme i cocci provvisoriamente, diamoci veramente un calendario ben preciso, facciamo la legge elettorale, facciamo un governo in salute pubblica per un semestre, tra 6 mesi si rivolta, vinca il migliore. La torre, la roadmap mentale, allora, è chiaro che, come dice Mentana, insomma, ci sono i vostri organi dirigenti del partito che devono decidere, devono ragionare sulla linea, naturalmente, però ci dica almeno se la roadmap mentana le sembra accettabile oppure no. Ma ha una sua logica, naturalmente la roadmap di Mentana contempla un elemento fondamentale, che è l'atteggiamento che avranno le altre forze politiche anche all'interno del Parlamento, a cominciare da Grillo, il quale ha avuto un risultato tale per cui non può, di fronte al Paese, rinunciare a prendersi delle responsabilità. Altrimenti dovrà dire chiaramente al Paese che io continuare a dire al Paese che io faccio una partita che è una partita per sfasciare tutto. Non credo che in questo momento questo sia un discorso responsabile, e per cui quella di Mentana è una roadmap che ha una sua logica. Naturalmente si tratta di valutarla in tutti i suoi passaggi. Una cosa è certa: guai a ripetere schemi già visti, come quelli per esempio del 2006, guai a pensare che il problema è azzuffarsi per una presidenza di una Camera piuttosto che per un ministero, perché in questo caso non solo rischiamo di perdere altri voti, la ma torre, ci ricoverano la torre, guai e anche, non ci fanno più la uscire torre, da qualche guai, centro di igiene mentale. Guai anche a non candidare Renzi la prossima volta, il primo errore l'avete fatto, ora basta, o no? Ma guardi, in questo momento dire guai a non aver, a fare una discussione su se avessimo o se non avessimo, credo che lasci il tempo che trova. Per esempio, un'altra corrente di pensiero sostiene che se fossimo andati a votare immediatamente dopo la caduta del governo Berlusconi avremmo avuto un Parlamento più governabile, una maggioranza più... Quindi con i se non si fa né la storia né la politica, naturalmente... Tutti sono elementi che vanno recuperati in una riflessione, ecco, all'interno delle forze politiche, per non rifare errori che si sono commessi, ecco, nel però, passato. Però il problema è come usciamo da questa situazione. Come usciamo da questa cosa, e anche, mi scusi, qua, dato che l'argomento l'ha introdotto Alessandro Milan, come ne esce il Partito Democratico? A questo punto... Ho letto molte voci, molte persone che chiedono la testa di Bersani, insomma, posti questi passaggi istituzionali che dovrete fare necessariamente, sono le elezioni del Presidente di Camera, Senato, fino all'approdo all'elezione del Presidente della Repubblica, voi dite l'incarico, però insomma il risultato pessimo del Partito Democratico è nei fatti dal punto di vista elettorale. Lasci stare il voto per la coalizione, quindi il voto complessivo, però il risultato non è un granché, insomma, il segretario forse dovrebbe lasciare. Ma guardi, ma da questo punto di vista noi avevamo già in programma, subito dopo le elezioni, di svolgere il congresso del nostro partito. Sarà quella la sede nella quale si farà una riflessione su tutto quello che è avvenuto e sulle scelte per il futuro. Quindi da questo punto di vista io non credo che ci siano particolari motivi di difficoltà o particolari drammi, c'è da prendere atto che questo passaggio congressuale previsto dovrà contemplare una riflessione anche su questo passaggio elettorale. 9 in punto. Dovremmo avere in linea, lo saluto, Vito Crimi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno, è del Movimento 5 Stelle, è capolista in Lombardia 2 o 3, adesso non mi ricordo. So, comunque... Lombardia 2, no, Lombardia regionale, Senato. Comunque neodeputato. Comunque neodeputato. Senatore. Neosenatore, perfetto. Ecco. Allora, lei, insomma, dovevamo averlo in onda alle... 9:10 e poi l'abbiamo chiamato adesso, dice, ho risposto adesso perché stavo lavorando. Che lavoro fa, Crimi? Io lavoro al Ministero della Giustizia, a Corte d'Appello, sono operatore giudiziario e continuo a lavorare anche in questi giorni, anche di pieno programma elettorale, insomma, che devo anche chiudere un po' di cose in sospeso, lasciare le consegne ai colleghi che mi sostituiranno. Dopo aver fatto, naturalmente, immagino una lunga notte elettorale ieri, no? Ma neanche tanto. Mezzanotte siamo andati a letto, quindi è molto normale. Abbiamo aspettato un po' i risultati quasi definitivi, consolidati, non abbiamo fatto quei festeggiamenti che si può aspettare o salti di gioia, eccetera, perché ci rendiamo conto che è una responsabilità che abbiamo... ci siamo assunti abbastanza importante e abbiamo la consapevolezza un po' della situazione grave di questo paese, quindi non c'è da esultare, ecco, mettiamolo in questi termini, c'è solo da rimboccarsi le maniche seriamente, però non solo per i manifesti elettorali, e fare qualcosa. Che cosa, per l'esattezza? Perché io ho sentito molte interviste fatte da voi, dite, sì, insomma, sui singoli provvedimenti noi siamo pronti a, siamo pronti a sostenere i singoli provvedimenti, e però, insomma, un sostegno complessivo ad un esecutivo guidato da un partito di quelli che definite i vecchi partiti, insomma, PD, PDL o quello che è, assolutamente no. E però, insomma, senza un sostegno iniziale ad un nuovo governo, i provvedimenti non si fanno. Ma guardi, vediamo, nel senso che adesso cerchiamo di capire che cosa succede nei prossimi giorni, perché chiaramente è anche ancora un po' presto, secondo me, per capire quali saranno, insomma, quale sarà la compagine di governo che si potrà configurare. Quello che dico è confermo questa posizione netta, diciamo, noi abbiamo delle idee ben precise, speriamo che queste idee vengano recepite. Sono anche idee che in molti casi sono state recepite già dai partiti in campagna elettorale, quindi ci aspettiamo che adesso ne prendano atto e che ne dia esecuzione. E quello che è importante, insomma, è che diciamo, ci siamo lì a mettere un po' diciamo un po' di pepe, no? Perché non vadano al di là dei binari che si sono dati, perché diciamo che molti dei nostri temi, come riduzione dei costi della politica, per esempio, era cavallo di battaglia di tutti riducevano i costi della politica, adesso vogliamo vederli all'opera, i primi passi. Si torna a votare a breve, secondo voi? Questa è la domanda. Immagino, cioè, che vi sarete parlati dice su che questo. Si vota tra 6 mesi. Guarda, questo non lo so, sinceramente non lo so, ripeto, aspettiamo un attimo di capire che tipo di compagine, che cosa succede, perché siamo sicuri che ci sarà qualche grande coalizione, qualche grande alleanza, sì, che probabilmente non durerà molto, viste le premesse. Ma tra chi, scusi, tra chi? PD e PDL? PD e PDL? Sì, secondo me sì, si ricostituirà qualche grande asse di nuovo, come è già stato per il governo Monti. Governo B&B, bed and breakfast. Sì. Enrico Mentana, prima che ci lasci, direttore, che appunto devi andare in un altro impegno, insomma, che impressione ti fa questa truppa entrante in Parlamento? Persone come Vito Crimi che ci dicono, insomma, non vi ho potuto rispondere alla radio perché fino a 10 minuti fa stavo lavorando. Beh, certo, a noi non ci deve spaventare, come gran parte, spero, quasi tutti gli ascoltatori, anche noi stiamo lavorando, anche altre, cioè avere delle persone normali con cui confrontarsi non è mai male, ma non deve essere neanche tanto sorprendente. Semmai quello che dobbiamo notare è che presi uno per uno, ascoltati uno per uno, i neoparlamentari, ormai qualcuno l'abbiamo già sentito, del Movimento 5 Stelle non sono dei barricadieri, dei pirati, dei sovversivi o chissà quant'altro si poteva prevedere ascoltando le voci preoccupate dei loro antagonisti. È ovvio che si tratta di assolutamente di persone che anche per il meccanismo delle cosiddette parlamentarie sono stati scelti nella più assoluta normalità, e si tratta di portatori di istanze che ben conosciamo, che possiamo far finta di non conoscerle. Piuttosto quello che, non essendo più io in berbe né troppo giovane, viene fatto di notare è che sono molto molto simili a come erano le prime pattuglie leghiste dopo l'ondata del Carroccio di 20 anni fa, cioè degli outsider che entrano in politica e che hanno sacrosanto desiderio di spaccare il mondo, di cambiare tutte le strutture, di soprattutto cancellare tutte le ruberie. Poi si sa com'è andata per la Lega, vediamo cosa faranno loro. Una ventata di aria fresca non fa mai male a nessuno. Ripeto, non è che ci sono un quarto degli elettori tra quelli che hanno espresso il voto che sono impazziti e hanno votato per un movimento autolesionista. Quindi noi sappiamo, se posso rubarvi ancora un secondo, noi sappiamo qual è il nostro problema, che quasi nessuno dei commentatori, dei giornalisti conosce dall'interno il movimento grillino per adesione, diciamo, ognuno ha le sue idee, ma spesso vengono trattati come degli stranieri, no? Come succedeva per la Lega 20 anni fa, e probabilmente impareremo a conoscerli, qualcuno di noi li voterà, qualcuno di noi li odierà, però adesso dobbiamo reciprocamente conoscerci, perché anche quando Grillo parla dei giornalisti ovviamente tradisce una diffidenza radicatissima, ci si imparerà a conoscere, però non c'è niente di male nel fatto che entri gente fresca che non è politica di professione, soprattutto perché non voglio essere maramaldesco, ma per tanti che ci hanno lasciati col voto di ieri, che escono dal Parlamento dopo 10, 20 e 30 anni, arrivano forze nuove, secondo un'idea della politica e della rappresentanza diversa, questo può essere positivo. Salutare, una ventata d'aria fresca. Grazie Enrico Mentana, direttore del TG La 7, buona giornata. Buona giornata a voi. Crimi. Andrei subito a ricommentare in particolare sulla parola normalità. Ecco, questa è una cosa che forse dovremmo ricostituire in questo paese, il concetto di normalità. Il concetto di normalità che si associa anche al concetto di onestà, che l'onestà sia normale e che non sia considerata un'eccezione, che la normalità sia la normalità, ecco, quindi un paese normale. Forse che la normalità sia normale. Crimi, ascolti una cosa, ma un... Sì. Governo di scopo, breve, per fare quelle 4-5 riforme che stanno a cuore anche a voi, legge elettorale, riduzione del numero di parlamentari e poi di nuovo al voto, è un'ipotesi plausibile? Mi interessa. Non lo so, nel senso che è una posizione che un po' dobbiamo valutare tutti insieme, ci incontreremo a brevissimo, perché come al solito tutte le nostre decisioni le prenderemo collegialmente, e quindi non ci saranno direttive dall'alto, questo vi posso assicurare, e quindi in maniera normale, tornando al concetto di prima, un gruppo di persone si incontrano, si confrontano, a maggioranza prendono una decisione, quella decisione sarà quella che seguiremo. Ecco, questo ovviamente lo faremo a brevissimo. Mi piacerebbe però sottolineare un'altra cosa, ridare al Parlamento il suo ruolo. Il Parlamento è il ruolo principale, cioè l'elemento principale che costituisce questa nostra Repubblica, che è una Repubblica parlamentare. Come tale è il Parlamento che deve essere il luogo in cui si forma l'azione legislativa e non il governo come è stato in questi anni. Quindi anche questo è un modo per ridare al Parlamento la sua priorità nell'ambito istituzionale. Sarebbe la vera cosa incredibile se riusciste a far ritornare il Parlamento a fare quello per cui è nato, cioè fare le leggi, visto che negli ultimi anni si fa così, il decreto legge del governo e poi... è il luogo in cui si incontrano le istanze contrapposte, diverse o simili, e insieme costruiscono quello che è il meglio. Però io continuo a credere che i numeri per fare una maggioranza non ci saranno. Poi io non lo so, forse sono idiota, leggo i numeri e non capisco, non so la matematica, non lo so, però continuo a rimanere della mia idea. Vediamo cosa succede, perché adesso comincia il mercato anche temete lo scouting? Lo scouting lei lo teme? No, personalmente no, ma no. Non beh, credo beh Grillo l'ha detto, Grillo l'ha detto spesso, no? Avremo i nostri scilipoti, no? Intendendo i passaggi, ha già qualche sospetto. Vi guarderete tutti, vi guarderete tutti con fare sospetto e dire sei tu che fai, sei tu che passerai dall'altra parte. No, sto scherzando. Beh, sì, noi abbiamo questa diciamo molta attenzione reciproca sui comportamenti e un atteggiamento molto di gruppo, facciamo molto gruppo e questa è un po' la forza, quello che ci ha portato fino adesso. Ecco, lei ha detto gruppo, decisioni collegiali, non ci dica che Grillo non conta nulla in tutto questo. Grillo conta come conto io, come contano gli altri. Non ha mai contato nelle decisioni dei nostri consiglieri comunali e consiglieri regionali. Quindi... qualcuno ne ha cacciato, sì, tutto sì, sommato, sì. No? Ma sicuramente, ma ha fatto bene, ma ha cacciato chi? Non sicuramente qualcuno sulla base del suo comportamento nell'ambito istituzionale. Chiariamo questo concetto. Grillo non è mai intervenuto sulle decisioni istituzionali prese dai nostri consiglieri. Non è mai intervenuto a punire, tra virgolette, qualcuno che abbia fatto un'azione o meno nell'ambito del suo lavoro istituzionale. È chiaro, quando poi vai a cominciare a attaccare la Democrazia Interna del Movimento, quindi fai il politico e il politicante all'interno del movimento, non è più il ruolo di consigliere per cui sei stato eletto, stai facendo altro, e lì subentra poi un meccanismo interno di tutela del gruppo e del movimento. Quindi distinguiamo le due cose. Di tutela che però è organizzato in maniera verticistica, cioè non è collegiale questo meccanismo di tutela del quale lei parla. Diciamo che è diffuso più che verticistico, perché tutte le volte che c'è stato un intervento di Beppe Grillo su qualche situazione è stato sempre ed esclusivamente su un'istanza diffusa della base. E la prova ne sono i vari sondaggi fatti successivamente a determinate decisioni, in particolare da BioBlu, Claudio Messora, in merito all'adesione un po' ad alcune decisioni prese in maniera drastica su determinati comportamenti, che non sono state altro che la ratifica di un sentimento diffuso nella base. Quindi veramente non c'è stata questa percezione. Ovviamente vi ricordo sempre che fa più rumore un albero che cade che mille che crescono, quindi quando ci sono 5-6 persone che cominciano a contestare, queste hanno una visibilità solitamente impressionante. E sull'immagine degli alberi che crescono, io devo sentire invece cosa succede sulle strade. 9 in punto. Raffaella ci chiama da Ancona, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Prego. Un saluto a tutti, volevo dare brevemente la mia lettura. Allora, intanto al neosenatore Crimi vorrei fare una domanda parafrasando una recente pubblicità. Vi piace vincere facile? Nel senso, non hanno vinto loro ma hanno perso i partiti, perché era veramente impossibile non farcela. Secondo, Silvio Berlusconi ha dimostrato di non aver creato nulla dietro di sé, perché la sua presenza dal 94 oggi è sempre imprescindibile. L'altra cosa che volevo dire, Monti secondo me è stato travolto dalla personalità dadaista, non solo di Oscar Giannino che pubblicamente ha dichiarato, ma da tutti i partiti, perché io ho sentito il senatore Latorre, che rispetto molto, ma oggi dice che respinge le politiche di rigore quando sono stati loro, insieme agli altri partiti, a invocarle quando è stato alla fine Raffaella, gliel'abbiamo detto fin troppe volte quando abbiamo avuti ospiti politici, soprattutto i PD e PDL, insomma adesso ve la prendete con Monti, ma avete votato tutto a tappetino. Crimi, non avete vinto voi, hanno perso i partiti, dice Raffaella. Ma infatti, ma guardi Raffaella, sono pienamente d'accordo, per questo non abbiamo esultato e non abbiamo fatto le piazze con lo spumante. Diciamo che hanno vinto i cittadini, forse, perché hanno vinto i cittadini che hanno deciso di dare un segnale forte a questa classe politica dicendo attenzione, guardate che partiti, se continuate così, la prossima volta è il 100% al Movimento 5 Stelle, cioè o 5 Stelle o ad alta forza politica. Quindi questo credo che sia il messaggio che sia arrivato da parte dei cittadini. Quindi se qualcuno ha vinto in questo momento sono i cittadini che hanno potuto avere una valvola di sfogo democratica per manifestare il proprio dissenso e una valvola di sfogo che sia anche propositiva e propulsiva. Crimi, secondo lei la presenza, molto se ne è parlato in queste ore, la presenza in campo di Renzi, un'eventuale vittoria alle primarie, avrebbe cambiato qualcosa per voi? Perché insomma si è detto che al di là di quello che pensa dal punto di vista politico, avrebbe rappresentato il rinnovamento che in un certo senso e per molti aspetti voi avete interpretato, siete riusciti a interpretare. Secondo lei avrebbe cambiato qualcosa in termini percentuali, proprio brutalmente, per voi? Resta il disinteresse, diciamo, di queste dinamiche, a mio avviso non importa, ecco, non miravamo ad avere il punto percentuale in più o il 2 punti percentuale in meno o più, insomma, la nostra era una politica fatta proprio nell'ottica del cercare di mettere una squadra all'interno di questo Parlamento per cercare di cambiare le cose e fare una rivoluzione culturale. Quindi indifferente, ecco, proprio alle analisi di questo tipo, non saprei e non mi ci sono neanche dedicato, ma né io, ma neanche tutti gli altri, lo posso garantire. Gianni ci chiama. Quanto sono nuovo? Quanto no, a me piace quanto sì. Sono lontani. Noi ci arrabattiamo ancora, Simone, a fare le domande della vecchia politica e politichese. Giustamente Crimici, ma che ce frega noi? Sì, Alessandro, poi vediamo quanto dura. Vediamo quanto dura. Ma io dico, sono contento più che altro che pensa se incontrava da Milano. Pensa se incontrava Favia in Parlamento, che non è stato eletto. Un rissone clamoroso tra i grillini. Gianni ci chiama da Milano, buongiorno. Allora, anch'io vi ringrazio per lo spazio che mi date. Non so se ci sia ancora Mentana. Ma forse no, non c'è più. Allora, fategli i complimenti, perché secondo me fin da ieri pomeriggio, tra tutte le TV che ho guardato, trasmetteremo i complimenti. Prego Gianni con la sua lettura. Niente, io sono pienamente d'accordo con quello che è l'intervento che ho fatto da voi questa mattina. Volevo solo aggiungere, cioè, che quello che c'è da fare è che ognuno usi la testa e non segua i modelli del passato, perché con quelli siamo arrivati a questo punto. Già il rappresentante del PD a porta ieri sera e il senatore di questa mattina, voglio dire, dimostrano che il modello è sempre quello e non ci porterà da nessuna parte. Io credo che quello che ha detto Mentana ieri, che condivido al 100%, è che l'Italia gli italiani non vogliono essere governati da questa sinistra. Poi è chiaro, il voto va come va, possono prendere un punto in più, un punto in meno, ma non è così che si governa l'Italia, chiaro? Quindi grazie Gianni, ci sembra abbia espresso abbastanza nitidamente la sua posizione. Insomma, Crimi, quindi andiamo sulle cose concrete. Io vi ricordo intanto che se chiamate all'800 24 00 24, si prosegue, lo speciale va avanti fino alle 13 con altri ospiti e altre interviste. Crimi, a proposito di rinnovamento, c'è chi dice, al di là di quelle che possono essere i momenti iniziali della vita istituzionale di questo Parlamento, quindi elezioni di Presidente di Camera, Senato, naturalmente l'elezione del Presidente della Repubblica, dicono insomma ci ritroveremo un Parlamento in netta difficoltà, perché le persone che entrano non solo non hanno alcuna esperienza né amministrativa né naturalmente politica, ma soprattutto non hanno un maestro, perché nei partiti normalmente le persone che entrano nuove del Parlamento hanno qualcuno che glielo insegna e voi non avete nessuno. E questa è una fortuna, spero di non averlo mai, perché speriamo di riuscire a scardinare anche alcuni meccanismi contorti che si sono ormai distorti all'interno del Parlamento. Però scusi, però i meccanismi, però per i Perdoni, abbiamo studiato allora le tre facce la premessa. Benissimo, questo volevo capire, questo volevo capire, no? Appunto, lì volevo arrivare. Abbiamo studiato quello che è il diritto parlamentare, l'abbiamo fatto in tutte le regioni, abbiamo fatto dei corsi, questo l'abbiamo fatto prima, quando eravamo candidati, e l'abbiamo fatto tutti, senza distinzione tra chi è prima e chi è ultimo. E ci siamo preparati a questo. Questo significa che siamo preparati a quello che è, quello che dovrebbe essere il Parlamento, ok? E non a quello che è diventato il Parlamento. E siamo preparati anche a stravolgere le prassi, se ci sono delle prassi consolidate che sono anomale, che sono distorte rispetto a quella che è la struttura della Repubblica Italiana e della Costituzione e delle leggi che regolano. Ci faccia un esempio, Crimi, o due esempi, o anche tre. Guardi, andremo a rivedere un attimo i regolamenti parlamentari, che sono molti non sanno che i regolamenti parlamentari sono una fonte primaria, e in sostanza praticamente vanno al di là delle leggi, al di sopra delle leggi, i regolamenti parlamentari, sono a tutti gli effetti parificati ai diritti penali, civili, insomma, sono un elemento fondamentale, e andremo a toccare quelli. Ne potrei citare alcuni, butto giù solo uno perché mi viene in mente in questo momento, perché ovviamente ho altre cose per la testa che non a ricordarmi tutte le teorie. Per esempio, il Presidente del Senato ha a disposizione il massimario delle decisioni dei Presidenti del Senato presi nel passato, ed è un elemento che è a disposizione esclusiva del Presidente del Senato, che gli permette di avere una posizione di rilievo nel prendere delle decisioni sui regolamenti rispetto a tutti gli altri parlamentari, che non possono fruire di uno strumento che gli permetterebbe di citare precedenti storici in merito alle decisioni su diatribe regolamentari. Sembra una cosa stupida, però a trasparenza e apertura vorrebbe che siamo alla pari, invece no. E alcuni meccanismi in merito alla calendarizzazione d'urgenza, per esempio, che viene fatta. Crimi, grazie, contento che abbiate studiato. Noi ci fermiamo, ma è solamente una pausa, perché poi lo speciale prosegue. Grazie ad Alessandro Milan per avermi accompagnato in quest'ora, Gianluca da provincia di Modena, Andrea da Roma, ci risentiamo dopo. Radio 24, la passione si sente.